Domenica 24 ottobre, Zine El Abidine Ben Ali verrà riconfermato per la quarta volta alla presidenza della Repubblica di Tunisia. A dirlo non è il solito sondaggio, qui peraltro pressoché sconosciuto, ma un dato di fatto. Nella precedente elezione del 1999, Ben Ali ricevette il terzo mandato con oltre il 90% dei suffragi e il suo partito, il Raggruppamento Costituzionale Democratico, si è aggiudicato 148 dei 182 seggi della Camera dei Deputati. I restanti 34 sono occupati dai rappresentanti di 5 partiti, tre dei quali è Tajdid, Partito di Unità Popolare e Partito Social Liberale, hanno presentato candidati all'elezione presidenziale. Al riguardo va ricordato che la legge elettorale consente solo candidature di appartenenti a partiti rappresentati alla Camera dei Deputati. Tre concorrenti senza speranza alcuna, che potranno vantare un risultato positivo se riusciranno a racimolare più dell'1% dei consensi espressi da oltre 4.600.000 elettori, dei quali 1.300.000 alle urne per la prima volta, e che voteranno anche per 168 liste per il rinnovo della Camera dei Deputati. Sono dati e affermazioni che possono lasciare perplessi quanti non conoscono la realtà tunisina, perché Ben Ali, nonostante critiche avanzate da oppositori residenti in massima parte all'estero e il pugno di ferro con il quale governa il paese, gode di una vastissima popolarità. È innegabile che il tenore di vita in Tunisia, assolutamente non paragonabile al nostro se teniamo conto che il reddito medio pro capite annuo è di circa 1.800 euro, è migliorato rispetto agli anni precedenti e dovrebbe migliorare. Ben Ali, nel discorso di apertura della sua campagna elettorale pronunciato dinanzi a circa 20.000 persone, ha fissato tale tetto a 5.000 dinari, più o meno 2.600 euro attuali, al termine del nuovo mandato nel 2009. E per concludere voglio ricordare quanto costa qui una campagna elettorale. Ogni candidato alla presidenza ha ricevuto dallo Stato 48.782 dinari, pari a circa 25.000 euro, e ogni lista ha avuto assegnati, in base alla vastità della circoscrizione nella quale è presente, poche migliaia di dinari, già versati per il 50%. L'altro 50% lo riceveranno a scrutinio avvenuto, a condizione di superare l'1%. Non proprio come dalle nostre parti. Per Amismet, Franco Chiavegatti di Reporter Associato.